DJ and they can take out Adam Horowitz. Hurricane, we got cloud. Other DJs, put your head out. I'm popping on a string, I'm paid to sing. I rhyme, I do my thing, I'm in a lava lamp. It's in my brain, I'm telling. We got cloud. Other DJs, put your head out. I'm popping on a string, I'm paid to sing. I rhyme, I do my thing, I'm in a lava lamp. It's in my brain, I'm telling. Beh. Johnny Royale, it's a bubble mushroom. I gave him 50 cents to buy some soup. He knows the time. I wear the fresh Gucci watch. She's even more over than my Leia and Kai. Watch the windows on a Bowery at a quarter to four. Cause he ain't gonna work on Maggie's farm no more. Living on borrowed time and borrowed money. Sleeping in the street, they ain't a damn thing funny. With the hand-me-down food and the hand-me-down clothes. A rockabilly pastor which nobody knows. Beh, problemi tecnici a parte, il CD si è piantato. Siamo in diretta. Buona serata a tutti da Radio Città del Capo e questi erano, vabbè, l'avrete capito ormai, i Beastie Boys. Buonasera, dottor Scarpa. Buonasera a tutti e a tutti. Stasera torniamo sì, a vedere un po' cosa accadeva insomma, il periodo nostro, ecco, quello lì fra 80 e 90, a Brooklyn per la precisione, dove insomma... E il rap un po' la faceva da padrona, no? Ricordiamo insomma sì, anche Public Enemy forse un po' dopo, però insomma il gruppo padre di tutti, insomma, Run DMC, la Def Jam e quant'altro, insomma, anche Africa Bambaataa volendo, e quindi anche loro bianchi di Brooklyn venivano influenzati da loro. He knows the time. I wear the fresh Gucci watch. Oh, eccoci di nuovo in diretta. Abbiamo sistemato i CD, ok, non era esattamente nelle migliori condizioni, ma per fortuna ne avevamo una copia. D'altronde i Beastie Boys vendettero milionate di copie. Penso che nella loro carriera abbiano venduto qualcosa come 50 milioni di dischi, ovvero sia il gruppo hip hop più venduto della storia, o giù di lì. Beh, certo è strano pensare che un gruppo bianco di hip hop venda tanto, insomma, comunque evidentemente loro piacevano, sì, insomma, era trasversale come gruppo. Ricordiamo che comunque nascono come gruppo punk. All'inizio loro sono in giro dal 1981, nascono appunto a New York, quartiere di Brooklyn, però nascono come appunto un gruppo hardcore punk. Ricordiamo che è uscita qualche anno dopo una raccolta di tutti i primi lavori fatti da loro nel genere punk hardcore e punk core, insomma hardcore. E Some Old Bullshit era la raccolta appunto che raccoglieva i primi lavori. Poi insomma hanno questa folgorazione sulla via di Damasco per l'hip hop, perché comunque ricordiamo che davvero a New York passava la crema in quel periodo, Africa Bambata, Run-DMC specialmente. Poi c'era Rick Rubin con la sua Def Jam che li mette sotto contratto. Yeah. driving a Range Rover. Expanding the horizon, expanding the parameters, expanding the rhymes of soccer MC amateurs. And Noggle, Isaac Newton, a scientific easy. A Ben Franklin with a kite, a getting over with the key. Now rock, shocking the mic of the many times, times the times, tables. Rockwell to tell the spell all of the old fables. Cause I've been jumping the new science, and I've been kicking the new knowledge. And I've seen to a degree that you can't get in college. Now the dregs of the earth and the eggs that I eat, I got pegs through my head, airborne through my feet, shade, stadium, viridium, E and D square, kick out of the palladium. Should I think that I can't? It's the sound of science. Yeah. I only smoke the Sensi Mila. Well, whoever know, I know, I will go. Let's go. What I leave on my and that's kick me broke. I got science for any occasion. Postulating theorems, formulating equations. Well, teachers, it's no blizzard. Eat a chicken, kiss it with a girl named Lizzie. Dropping science like Galileo dropped the orange. 348-7649-289 per mandarsi degli sms. Siete in diretta con noi a Radio Città del Capo, cioè con me, sottoscritto, e il dottor Scarpa. Stiamo parlando di tre ragazzi terribili, ma tre idioti, come aveva titolato i Rolling Stones, dato l'exploit che fecero all'inizio. Eh sì, perché come dicevamo prima, i Beastie Boys sono in giro dall'inizio degli anni 80, ma erano veramente ragazzetti. I Rolling Stones, col botto che fecero col primo loro disco Licensed to Ill, che vendette milionate di copie già all'esordio, titolò più o meno tre idioti hanno sfornato un capolavoro. Non che fossero esattamente degli idioti, ma erano tre ragazzi, ragazzi si direbbe qua a Bologna, che venivano dal punk, come abbiamo detto, si innamorarono di una forma nuova. In quell'epoca stava proprio esplodendo dal Bronx, nell'inizio degli anni Ottanta, e la portarono fin qua, sicuramente, fino a molti di noi qua in Europa, anche in Italia, nella maniera più giocosa, divertente e cazzona, posso dirlo? Possibile? Beh, sicuramente non... sì, cazzoni. Comunque, no... Cioè, c'è comunque poco da fare, vincevano a mani basse. Sì, come... perché il video poi era divertentissimo, no? Cioè, noi vogliamo il diritto al party selvaggio, quindi comunque era... un po', insomma, quello che dicevano anche i Blues Brothers, no? Anche loro, insomma, Animal House e quant'altro, insomma, divertimento, sbragamento, e fece colpo anche in Italia. Poi comunque la musica, qualcuno disse che non sanno fare niente di bene, però tutto quello che fanno è divertente, quindi alla fine passava il messaggio del divertentismo a tutti i costi. E insomma, comunque poi piano piano hanno assorbito anche le varie influenze di musica nera, oltre, insomma, al punk dei primi tempi, quindi comunque si sono, insomma, anche, insomma, professionalizzati, possiamo dire, ecco, non solo dei cazzoni, ecco. No, no, per niente, anzi, l'approccio che avevano era sicuramente quello punk, quindi non è che fossero degli idioti, è che venivano dal punk, quindi, come dire, buona la prima, lo spirito punk è, da un certo punto di vista, intransigente, quindi fare solo musica con chitarra, basso e batteria si era già diramato in vari sottogeneri. Loro erano cresciuti a post-punk, ricordiamo che sono dei ragazzi nati tra il 64, 65 e 66, quindi all'inizio degli anni 80 erano veramente dei ragazzini. E lo stesso Rick Rubin era ancora al college quando fondò la Def Jam, l'etichetta che li lanciò e che lanciò tantissimi gruppi pop, Public Enemy compresi, e anche gruppi metal come gli Slayer. Ebbene, loro erano tutti dei ragazzetti, e To Fight For Your Right To Party, che era loro, il singolo che li ha fatti esplodere, con un video dove tre ragazzotti, loro tre, entravano in un appartamento e lo disfavano. Sì, non è che dicesse molto altro di più, ma era il contesto e il linguaggio che era completamente nuovo, e anche il modo di cantare. La cosa bella è che era anche mescolato, era molto ben veicolato, non solo perché erano dei bianchi, per giunta ebrei, di una borghesia benestante newyorkese, ma anche il modo di cantare non era il rap vero e proprio, era un cantare sgolato e sguaiato che era molto più simile al punk hardcore che non a qualsiasi disco hip hop che stava comunque per affiorare. Do the touch controls, we don't go, you know what goes in. Your old lady left you and you went in. Hit the fucking brother. Eccoci qua di nuovo dal vivo, 21 e 32 minuti, dal vivo noi, ma non solo noi, anche i Beastie Boys. La cosa bella che avevano, e un'altra cosa che li ha avvicinati un po' a tutti noi che venivamo dal rock, è che dal vivo suonavano strumenti musicali, appunto, venivano dal punk e andavano in giro con un DJ che li coadiuvava. Quindi la cosa bella è che non scadevano mai nella semplice fusione di due generi, imitando magari qualcuno che faceva i pop con gli strumenti, no, era un vero e proprio tagli e cuci fatto dal vivo. E personalmente... forse gli unici dischi di hip hop che ho comprato in vita mia sono stati proprio quelli dei Beastie Boys, perché c'è poco da fare, il modo di cantare, i suoni erano quelli del punk rock. Beh sì, un po' la curiosità di vedere questi artefici, insomma, del punk rock che si cimentavano poi in un altro genere, e questo mi ha incuriosito molto. Infatti io all'epoca quando comprai Post Boutique, fu il primo CD comunque di musica insomma non punk rock, lo feci per questo, insomma per la curiosità di sentire quello che potevano fare dei punk rock con l'hip hop, e rimasi molto molto soddisfatto e poi andai avanti nella ricerca del gruppo. Ricordiamo che loro comunque hanno chiamato il gruppo Beastie, non perché sentono delle bestie, ma perché praticamente è l'acronimo di ragazzi che entrano in stati anarchici per ottenere la perfezione interiore. E, insomma, facevano un po' questi viaggi, un po' come l'altro pazzo dei Nation of Ulysses che si faceva i viaggi sugli stati anarchici. 13 Point to Destroy America, c'è tutto, se comprate il disco c'è tutto il programma ben dettagliato. Altri pazzi come i Beastie Boys. Insomma, loro sono Adam Horowitz, l'abbiamo ancora presentati, AD Rock è il nome d'arte, Michael Diamond, Mike D, e poi Adam Yoch, MCA, che purtroppo ci ha lasciato nel 2012 per un male incurabile. Sì, tanto per crearsi nel mondo hip hop, quello ormai istituzionalizzato, si stava diventando qualcosa di, come dire, ben identificabile, e si diedero anche loro i classici soprannomi con le lettere e le abbreviazioni che avevano gli MC hip hop afroamericani veri e propri. Comes around, what goes around, comes around, and what comes around, the best in men's clothing. Eccoci qua, ancora in compagnia dei Beastie Boys. Abbiamo raccontato un sacco di cose su di loro, ma anche come li abbiamo conosciuti e come siano riusciti ad insinuarsi nelle case di milioni, veramente milioni e milioni di persone, a diffondere il verbo hip hop, rap, più o meno in tutto il mondo, ma soprattutto in una mentalità tipicamente occidentale, che vedeva comunque la musica come qualcosa di abbastanza serioso. E poi c'è questa divisione, ma non ho mai capito se fosse più una cosa da critici musicali, cioè la musica nera, il funky, il jazz rock, e l'hip hop successivamente erano visti dai bianchi conservatori che ascoltavano rock, e prima, se avete sentito bene, c'è addirittura un pezzo hillbilly country, come qualcosa di secondario, musica giusto per ballare, come se il rock non fosse nato come musica per ballare. Così infatti era considerato agli inizi James Brown e tanto soul tipo Curtis Mayfield, stessa roba per dicasi per la dance degli anni 70, che è stata rivalutata solo in anni recenti, ma non in questi anni tra l'88 e l'89 di Post Boutique. Ma mi sa che la cosa buona che avevano i Beastie Boys, nonostante abbiamo detto che erano ragazzi bianchi di origine ebraica, non è così importante. La cosa buona è che travalicarono questi limiti. Non c'era più bisogno di passare qualcosa che fosse legato alle tue radici culturali, ma in una metropoli come New York penso fosse molto più facile, perché si era tutti molto vicini. Se andate in giro per New York probabilmente ve ne rendete conto, le strade non sono strade, sono dei canyon di asfalto e cemento, e in quei canyon c'è un po' di tutto, neri, bianchi, gialli, direi tutte le razze e le etnie del mondo. E quindi per questi ragazzi piuttosto svegli, altro che idioti, non deve essere stato più così difficile passare da un quartiere all'altro, magari da Brooklyn o da Manhattan al Bronx, andare a sentire i primi rapper fare le loro performance e passare dal punk all'hip hop, montando tutto quanto. Ma ripeto, non era fusion come poteva essere appunto il jazz rock di Miles Davis, che magari loro stesso citavano. Non gliene fregava niente diffondere e imitare altri generi, e non hanno fatto neanche una cosa da Rolling Stones, che presero a piene mani il genere dei bluesmen e lo rifecero meglio, più levigato. Loro lo fecero tagliando e cucendo qualcosa che c'era già. Beh, poi comunque possiamo dire che facevano anche non analizzavano molto la realtà che vivevano. Loro si divertivano così, e per dire, non parlavano, anche se fumavano grandi dosi di marijuana, però non facevano come i Cypress Hill, che ne declamavano sempre, no? L'uso. A loro, insomma, sì, faceva piacere, però non ne parlavano troppo, ecco, delle loro tendenze. Ecco. Funky boss, funky boss, funky boss. Beastie Boys stasera a Radio Città del Capo. Insomma, parlavamo di questi tre quasi dementi, per modo di dire, perché no, vabbè, si fa per dire, sicuramente non erano stupidi, andavano in giro e facevano anche dei soldini, un anno addirittura andarono in tour con Madonna. Che ma già gli esordi. Sì, sì, già gli esordi. Sinceramente lei voleva i Run DMC, però qualcuno le disse, vabbè, ma ci stanno anche questi ragazzi, portateli in giro, magari si fanno un po' di pubblicità. E insomma, alla fine Madonna non li sopportava più, perché puntualmente si spogliavano nudi sul palco. Allora a Madonna sta cosa qua non andava troppo a genio, anche se comunque era un po' troppo mainstream. Era un po' troppo mainstream. Vabbè, poi Madonna... non loro. Sì, sì, ma poi comunque Madonna non è che poi si è mai tirata indietro per queste cose, però evidentemente avevano un po' ecceduto negli atteggiamenti. Sì, ma lei ammiccava, loro invece andavano sul concreto. Beh, insomma, fatto sta che poi i tour successivi anche in Inghilterra hanno avuto dei problemi nei locali, insomma, risse con i buttafuori e quant'altro, perché loro c'erano sempre avuto un po' con i buttafuori, anche ai tempi dell'hardcore, e c'era quel pezzo che parlava appunto di andare a buttare del riso sulla testa di un buttafuori che non li faceva, cioè li faceva entrare quando lui tirava il culo, come si dice a Bologna, non sempre. Allora fecero un pezzo su questa cosa qua, andiamo a buttare il riso in testa al buttafuori. Sì, so, perché l'abitudine di infamarsi, come dire, non so se l'abbiano inventata loro, che poi diventa tipica del gangster rap ed era una cosa molto pesante e reale, qualcuno ci è anche rimasto ammazzato, più o meno, non tutti. Per loro invece ovviamente era un'abitudine sarcastica, ironica, che era la cifra che li ha sempre contraddistinti, tant'è che la Grand Royale, etichetta e fanzine che loro fondarono alla fine degli anni 80 e inizio 90, aveva come direttore un ex collaboratore di Spin, una nota rivista mensile americana molto famoso, che aveva stroncato le loro capacità cestistiche in un articolo su Spin, e quindi loro fecero il lato B di un 45 giri che praticamente diceva: mi devo vendicare, devo andare ad ammazzare questo giornalista perché ha parlato male me a basket. Ovviamente poi lo assunsero. Eccoci ancora qua dal vivo. Forse siamo anche riusciti a raggiungere un altro dei nostri inviati speciali. Certo, non così speciale come il dottor Pappalardo, che abbiamo avuto in compagnia nell'occasione della puntata su Litfiba, ma un ospite che di solito è qui nei nostri studi con noi, ovvero sia Matteo. Ci sei, Matteo? Sì, mi sentite? Ti sentiamo forte e chiaro. Chiaro. Bene, bella lì. Dove ti trovi? Dicevi al Queens? Sì, in un sobborgo, in uno dei 5 distretti di New York, uno a caso. Infatti sentiamo un po' di ritardo di propagazione. Esatto, ci sono palazzi alti come il cielo, diciamo, palazzi che arrivano fino al cielo. Beh, diciamo, cosa ci fai in quello di New York? Hai preso la nostra macchina del tempo e sei andato a sentirti qualche concerto dei Beastie Boys? Più o meno, sì, volevo fare una passeggiata nel Sunshine State, no? Da dove vengono i Beastie Boys. Beh sì, decisamente una città soleggiata, le ombre, a parte le ombre. Sì, una roba tranquilla. Noi qua abbiamo già dissertato ampiamente sul fatto che questi tre mattacchioni, chiamiamoli così per non dire peggio, siano riusciti a fare il botto totale travalicando in maniera, come dire, irriverente qualsiasi tipo di confine tra musica nera e musica bianca e assemblando tutto alla belle meglio, con il miglior spirito punk. Sì, sì, ma soprattutto partendo proprio dal punk, nello specifico dall'hardcore. Non so se avete detto che loro iniziarono proprio come gruppo hardcore. Certo. Chitarra, basso, batteria, voce, pezzi molto brevi, pochi minuti. Questo spirito è stato poi ripreso nell'EP Aglio e Olio, che se la memoria non mi inganna è del 1994-95 al massimo, comunque erano 5 pezzi per 11 minuti totali di durata, e la differenza rispetto agli altri gruppi hardcore stava nei testi, che erano veramente stupidi e nonsense e non veicolavano alcun messaggio politico di qualsiasi altro tipo. Era proprio roba stupida per il gusto di farlo, roba stupida. Beh, d'altronde loro il gusto di farsi, come dire, un hobby o fare le cose ad hobby, dopo il botto che fecero col primo disco, lo sfogarono anche con la loro etichetta, che divenne anche una fanzine, la Grand Royale. Esatto, quella però a differenza dei dischi pubblicati come Beastie Boys andò a finire male, nel senso che dovettero chiudere perché erano sommersi dai debiti. Esatto, e dovettero dichiarare fallimento. E fu un peccato perché pubblicavano roba veramente a sfregio anche lì, ed era roba molto bella, molto divertente. tra i quali, tra la quale mi viene in mente soprattutto i Moist Boys, non so se ne avessimo già parlato in altre occasioni, comunque no. Il progetto, chi erano? Erano praticamente i Win sotto mentite spoglie, e a differenza dei Win che facevano roba molto tranquilla, molto anche commerciale, erano una specie di Flaming Lips ancora più strani, ancora più psichedelici. I Moist Boys erano la versione hardcore dei Win, erano sempre loro, no? I due finti fratelli Dean e Gene Win, e che però facevano roba ai confini con l'hardcore, quindi in un certo senso un cerchio che si chiude. Ok, rimane in linea da quel di New York, da quel del certo. 1992, e poi ci sentiamo tra un paio di brani. Bella. Oh, Ed eccoci ancora qua, dopo questo feroce hardcore dei Beastie Boys, passano alternativamente con facilità da un brano all'altro, cosa che non era scontata negli anni 80, poi qua nel 92 loro diedero veramente la stura a ogni tipo di possibilità. È molto bello trasvalutare, passare, come dire, passare il confine in maniera tra l'altro irriverente, perché loro irriverenti lo sono sempre stati, ma poi hanno dato invece la stura a un genere, a un sottogenere dell'hip hop, di gente che si prendeva molto più sul serio. Dico bene, Matteo? Esattamente, precisamente. C'era questo sottogenere che, di cui parlare adesso sembrerà fare archeologia sonora, preistoria. Comunque, tra la fine degli anni 80 e la prima metà degli anni 90 andava moltissimo il gangsta rap, con artisti veri o presunti criminali, o comunque insomma che avevano fatto della loro vita di strada, dello spaccio, della criminalità, uno stile di vita e una cifra stilistica. E quello che è più ironico sta nel fatto che le basi musicali sono state gettate proprio dai Beastie Boys, cioè un gruppo di rei benestanti, bianchi ovviamente, che non avevano nulla a che spartire con la criminalità organizzata e a cui non fregava assolutamente niente, ma il modo di campionare pezzi altrui e rimiscelarli in modo creativo e insospettabile, le sorgenti sonore erano spesso irriconoscibili, questa metodologia di lavoro arriva proprio dai Beastie Boys, che tra l'altro, questo è bene ricordarlo, non so se ne abbiate già parlato prima, hanno avuto per qualche anno un DJ chiamato Dr. Dre, ma non era il Dr. Dre di cui abbiamo poi anche già parlato noi, è un altro Dr. Dre di New York, della costa est, e conduttore del programma Rap di MTV. E qualcuno forse se lo ricorderà, si chiamava Yo MTV Raps, e il conduttore era questo Dr. Dre, che non aveva nulla a che vedere con il Dr. Dre che diventò famosissimo e miliardario nella costa ovest invece. Our evening began in Peter Sechelle's comfortable study in his New York townhouse, where the candlelight was just right, the hi-fi was in the background, and the wine was delicious. What's the secret, Peter? Naturally, I'll say it's the wine. It does go well with a chicken. Delicious again, Peter. Shine, Diavolo, questo Check Your Head sembra quasi un disco serio, suonato con strumentisti molto molto preparati. Tutta un'altra storia rispetto al primo, l'esordio, l'Essence and Twill, che lo ricordiamo, è stato il loro massimo incasso, massime vendite all'esordio, fecero un botto tremendo, mandando in burla quello che era un genere uscito da quartieri di New York duri. Dico bene, Matteo? Esatto, loro lo mandarono in vacca. A livello ideologico sicuramente in vacca, perché il pezzo che li fece esplodere fu Fight for Your Right to Party, letteralmente combatti per il tuo diritto a fare festa, no? A fare casino. E praticamente, come dire, fu un ribaltamento totale dei concetti espressi fino ad allora, e un ribaltamento che poi venne a sua volta ribaltato l'anno successivo dai Public Enemy, che nel disco, adesso non ricordo quale fosse, forse It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, fecero il pezzo Party for Your Right to Fight, quindi proprio un calzino rivoltato che venne rivoltato a sua volta, riportando l'impegno civile sugli scudi. Ma Matteo, sembra un po' la storia del Toga Party dei Blues Brothers, no? Cioè di Joe Belushi, no? Toga. Sì, cioè toga. Praticamente quando quelli che arrivarono a sfasciare la chitarra furono loro. Ma sì, dai, ma in realtà a noi ci piace molto questo approccio cazzone, che probabilmente, non lo so, ci piace pensare che abbia gettato qualche ponte, no? Spaccando un po' le barriere tra il modo serioso, come dicevamo prima, di fare rock, anche l'hardcore era molto serioso, iperpoliticizzato, e quello magari anche più godiamoci la vita, tipico del funky che degli anni 70 e della disco music. I Beastie, esatto, Boys hanno messo tutto assieme sbattendosi altamente. Esatto, non solo, prima sentivo anche il pezzo che avevate messo in onda, è praticamente un pezzo lounge. Nel 1995 i Beastie Boys fecero un disco lounge interamente strumentale, In Sound From Way Out. Però quello non vendette molto. Ah no, andò malissimo, infatti fu l'inizio della fine per anche la loro etichetta. Però fu un disco proprio completamente diverso da quelli precedenti e interamente suonato, come stavi dicendo prima. now it's showtime at PJ's. How about a great big round of applause? Check this out. Thanks for coming down tonight. It's nice to see all you guys back here. All you guys. Alright, we're gonna pick this one up now. We're gonna get into it now. Beh, insomma, è tutto per questa sera. Stiamo un po' traducendo quello che diceva il tipo nel disco dei Beastie Boys, che sembra addirittura un disco dei James Taylor Quartet, insomma, funky anni 70, ma non è vero, sono sempre loro che spaziano a destra e manca. Che ne dici, Matteo? Come butta lì da Città dei Venti? Non so se si può notare dal casino che c'è in sottofondo, ma qui non trovi mai un dance floor vuoto, come diceva Dr. Dre, l'altro Dr. Dre, quello famoso. Quello vero, quello da grana. Va bene, quindi ti salutiamo, grazie per il collegamento. Ci dispiace aver tirato fuori da questi dance floor newyorkesi. Ah, è un casino, eh. Ogni volta che cerco di uscirne loro mi ributtano dentro, lo diceva anche Al Pacino. Ok, buonanotte a tutti, grazie dottor Scarpa. Grazie a tutti, insomma, che ci ha ascoltato. Ecco. Grazie per la pazienza. Perché grazie per la pazienza. Grazie anche a Margherita per la collaborazione sul nostro blog, che lo ricordo, si chiama thisisnotanexit.altervista.org. Ce l'ho fatta, e dopo questa, buonanotte a tutti. Bella. Yeah.